Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di potere, parliamo di globalità, di mondo globalizzato, parliamo di giovani, parliamo di economia, ma ne parliamo, come vedrete, in modo un po' diverso, perché ne parliamo sulla base di un libro interessante. Il titolo è Il potere noioso, l'autore è Alberto Forchielli. Buonasera Forchielli. Buonasera. Alberto Forchielli è una voce nota di Radio 24, ogni tanto ci fa compagnia, è nato a Bologna, vive ad Imola ogni tanto perché gira sempre il mondo, sposato, due figli, fondatore e presidente del fondo di private equity Mandarin Capital Partners. È uno che, come dice nel libro, ha fatto i soldi con questo fondo andando in Cina, girando il mondo, ha uffici a Imola, ma anche a Boston, a Shanghai, a Londra, probabilmente da qualche altra parte che non dice. Alberto Forchielli, com'è che si fa fortuna? In tanti modi. Io, anticipando i trend, riguardando la mia vita, mi sono accorto che ne ho buttati via tanti, ma quelle volte che li ho fatti è capendo le cose un po' prima degli altri. Ecco, Alberto Forchielli è stato consulente di governi, del ministro Andreatta, di Prodi, è stato consulente di multinazionali, di imprese, della Banca Mondiale, e viene anche ascoltato spesso al Congresso degli Stati Uniti. E quindi è stato vicino al potere. Perché il potere è noioso, come dice il titolo del libro? Perché devi sempre incontrare persone che non vorresti incontrare. Ossia, i temi sono dettati, non te li scegli tu. L'agenda non te la scegli, le persone non te le scegli. Per cui la giornata devi avere una grandissima ambizione, perché veramente... Ti tocca, capito? Guardate l'agenda di un presidente del consiglio, ossia tra una cena della Croce Rossa e un ambasciatore poco significante, un cardinale che viene a perorare una causa, un sindacalista, quattro telefonate al Parlamento ricattatorie, non essere padrone della propria agenda. Dover sempre vedere e spendere tempo con gente che non inviteresti mai a casa tua a cena. Accidenti, si pagano dei prezzi. Ma questo vale soprattutto per l'Italia o è così anche nel resto del mondo? Ma è abbastanza così anche nel resto del mondo. Allora l'alternativa al potere, alla ricerca del potere, è la ricerca del successo nelle altre imprese, nelle imprese appunto magari finanziarie ma anche industriali. Ecco, questo libro è un libro forse un po' pessimista come approccio, infatti già nel sottotitolo si dice bisogna che i giovani lascino l'Italia, vadano a cercare fortuna da altre parti, però poi all'interno si dice sì, l'Italia è un gran casino, il paese va a grandi difficoltà, però in fondo Imola è una grande città, le imprese, le piccole imprese vanno molto bene, sono tutte guidate, tutte o quasi, guidate da grandi imprenditori. Quindi se andiamo nel piccolo Forchielli, poi nella persona l'Italia è un grande paese ancora. Ma sì, lo è, solo che appunto perché il piccolo non ha potere. Nel piccolo non ci sono giochi di potere. Il piccolo deve vivere sui comportamenti corretti, sulle scelte giuste, sulle persone in gamba. È un mondo che non, a cui non interessa il potere, lontano dal potere. Ecco, ma in questa prospettiva però vivono bene, fanno affari, sono aziende globali, arrivano anche, lo puoi dire anche tu, in Cina, dove le aziende italiane sono presenti in molti aspetti e quindi si muovono, riescono anche a muoversi a prescindere dal potere. Sì, diciamo, si muovono con grande, con difficoltà, ossia se fossero basati in un altro paese si muoverebbero molto meglio, si muovono vessate dal fisco, si muovono con servizi inesistenti, si muovono ipertassate, si muovono a volte con impiegati svogliati che non possono licenziare, con una politica di merito che non riescono ad applicare. Sì, si muovono, però quella categoria di imprenditori che girano il mondo sono incazzate con l'Italia come delle bestie, sono i più ribelli. Ecco, e hanno qualche ragione, il libro lo spiega molto bene, ma torniamo al libro, perché questo libro in pratica è stato scritto da Michele Mengoli, che appunto fa anche la prefazione, dice: questo libro è cresciuto come un fungo in cantina. Come è nato questo libro, Alberto Forchielli? Io Michele mi ha trovato su Facebook, dove io facevo soprattutto delle gag, e ha detto: è molto divertente, dobbiamo fare delle cose insieme. Io ero sul treno, dico: va bene, Michele. Poi dopo sono caduto dalla scaletta del treno, quindi Mengoli già è cominciato portandomi una sfiga pazzesca, perché cadere dalla scaletta del treno, ti giuro che è una roba che non lo vuole nessuno. Però poi da lì ci siamo ripresi e abbiamo deciso di fare una telefonata ogni sabato, da cui scaturivano mediamente due articoli. Mengoli mi chiedeva del mio mondo, ma Michele era molto curioso del mio mondo, Michele aveva proprio questa sua passione, a volte io mi irritavo perché mi toccava fare lezione, no? Per cui gli davo dei tempi, perché non finiva mai di fare delle domande. Sì, non era di quei giornalisti che avevano fretta di chiudere il pezzo, se lui, capito, se gli davo corda mi rovinavo il pomeriggio. E poi alla volta mi ha tirato fuori un sacco di cose, io parlavo ruota libera come il mio solito, sono venute fuori tante interviste, e quindi dopo, un po' alla volta sono piaciute, e da lì si è fatto avanti la Baldini Castoldi chiedendo di poter pubblicare questa collezione di interviste. Devo dire, Michele è stato molto bravo, perché interpretava... Ha fatto un grande sforzo, perché lui non è un giornalista di economia, e per cui però non è sbagliata una. No, beh, è un libro che si legge bene, sembra appunto è scritto da una persona che sa tenere in mano la penna, che sa incuriosire, che sa anche andare a scavare un po' tra la cronaca, la storia e la teoria economica, perché poi ci sono anche tanti elementi di economia che meritano una riflessione, insomma, quindi... Complimenti anche a Michele Mengoli. Che... Assolutamente, soprattutto. Ecco, torniamo per concludere un po', che ci avviamo anche alla conclusione al libro. Un libro appunto che racconta una storia fatta di tanti incontri, di tanti avvenimenti, in cui si dilunga giustamente sulla Cina. Ecco, come sta la Cina, Forchielli? Si dice... Sai che non so più se ce la fanno a raggiungere gli Stati Uniti? Dice, ma la frenata di cui si dice non è solo una frenata per cui invece di andare a 100 vanno a 80, ma continuano a crescere, è una frenata reale. Sì, il famoso aggancio agli Stati Uniti va più in là nel tempo. E quindi l'incognita Cina, come dice uno degli ultimi capitoli, ci sta tutta, è un'incognita questo grande paese. Sì, è un'incognita, anche se, sai, sono tanti, sono lavoratori, ci sono poche scolature in quel paese, per cui, sai, fanno presto, c'è un potere asimmetrico rispetto a una democrazia occidentale, quindi possono permettersi di fare cose che una democrazia occidentale non può fare, per cui... Sì, la grande incognita di rispetto a loro. È anche se regge un'economia di mercato in un sistema autoritario, in un sistema centralizzato, politicamente monolitico come quello cinese, però... Io non ci credo a questa storia che non regge. Sono anni che lo diciamo, ma non dà mica segni di strain, perché è politicamente centralizzato, però... Ormai il settore privato è molto esteso, e le province, al contrario di quanto si pensi, godono di una certa autonomia. Io non appartengo alla teoria del botto cinese, appartengo alla teoria del rallentamento graduale. E quindi una gara di Formula 1, capito? Dove c'è uno in testa, quello dietro gli prende un secondo al giro e poi dopo non so come... poi dopo gli prende mezzo secondo e adesso insomma la marcia d'avvicinamento agli Stati Uniti è sempre più complicata. Anche perché gli Stati Uniti continuano a camminare, insomma. Continuano a camminare. Ma torniamo all'Italia per concludere, anche perché nonostante un pessimismo abbastanza di fondo una giusta analisi sui problemi di questo nostro paese, però al fondo c'è anche una grande fiducia. Non a caso citi il fatto che qualche tempo fa hai lanciato quasi un appello dicendo: siamo stati un popolo grande, come tutti abbiamo fatto errori, ma solo ritrovando le nostre radici possiamo trovare una strada verso il futuro. Che grande ambizione in questa frase, che però ha raccolto sui social una grande adesione, con appunto un elenco, forse sterminato, di persone che hanno fatto grande l'Italia, che possono comunque essere un esempio per tornare a far grande questo paese, magari non a far grande come nel Rinascimento, però dobbiamo essere un po' ottimisti, Forchielli. Ma guarda, cioè, io muoio qui, io muoio in Italia. Cioè, io non sono di quelli che poi si dimentica, si fa finta di parlare con capito, l'italiano con l'accento americano. No, no, io parlo bolognese, poi quando ho finito di lavorare non ho più niente da dire, torno qui. Come va a finire non lo so, però questo è il mio paese, questa è la mia terra, mi ha dato tantissimo e si tornerà qui per cercare di fare il meglio che si può. In fondo siamo tante persone, viste singolarmente siamo tutti bravi. Ma sì. Prima di tutto il paese è bellissimo. E questo è già qualcosa, perché... Sì, no ragazzi, La Cina è una merda. Capito? Sì, anche l'America sì, per forza, se stai a New York e San Francisco, ma mo' in Kansas... Misuri, capito? Vedere quanto ti diverti. Altro che il potere noioso, ci sono ben altre noie. L'Italia è un grande paese, un bel paese. Ci si diverte anche. Grazie Alberto Forchielli. Ciao. Grazie per essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Il potere è noioso, il mondo globalizzato raccontato dal più anarchico degli economisti, scritto appunto da Alberto Forchielli con Michele Mengoli, edito da Baldini e Castoldi. Sono 220 pagine e costa la bellezza di 15 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.